America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Abbiamo una serie di notizie oggi piuttosto importanti che riguardano l'amministrazione Obama e l'economia. Sentiamo la prima. Let's bring in John Harwood on the story of the evening, and that is Larry Summers stepping down from the White House after the elections. John, what does this mean, and what does this mean for the Obama administration's direction in terms of economic policy? Well, I think, Melissa, it's more about sending a signal of change than it is about a change of direction in policy. L'annuncio delle televisioni americane: sarà Larry Summers, il più potente, forse consigliere economico di Barack Obama, a pagare per il fallimento delle politiche di stimolo dell'economia del governo statunitense. La Casa Bianca ha confermato che Larry Summers ha dato le dimissioni, tornerà a insegnare a Harvard, resterà alla Casa Bianca fino alla fine dell'anno. Esiste già una indiscrezione sulla possibile successione. Si parla di Anne Mulcahy, che è l'amministratore delegato della Xerox, la grande casa produttrice di fotocopiatrici. Una scelta possibile interessante questa, perché significa che Barack Obama ha capito il messaggio alla Casa Bianca, al governo. Non ci vogliono solo teorici, professori, ci vogliono anche persone pratiche che conoscono il mondo del giorno per giorno, che sono in grado di prendere delle decisioni molto concrete. Devo dire, l'uscita di Larry Summers in realtà è soltanto l'ultima uscita di così un piccolo esodo che abbiamo avuto dall'amministrazione Obama. Per esempio, qualche mese fa Peter Orszag, che era il direttore del bilancio, persona molto competente, ha lasciato così in mezzo a qualche polemica. Christina Romer, che era il capo economista della Casa Bianca, anche lei ha lasciato adesso questo mese, anche lei è tornata a insegnare economia all'Università di California. C'è un'altra uscita imminente, quella di Rahm Emanuel, che è il capo di gabinetto della Casa Bianca, dunque un personaggio chiave. Emanuel ha già comunicato che è interessato a correre per la poltrona di sindaco di Chicago. E dunque cambiamento in funzione di che cosa? Cambiamento in funzione delle elezioni di novembre. I democratici non dovrebbero far bene, i repubblicani guadagneranno molti seggi. Barack Obama intende dare un cambiamento soprattutto sull'economia, perché queste elezioni saranno un referendum sul pacchetto economico del presidente americano. Un pacchetto economico che ha avuto come architetto soprattutto Larry Summers, che ha messo a punto un pacchetto di stimoli da 787 miliardi di dollari. Non sono bastati, soprattutto non sono stati spesi nel modo giusto. Alessandro Profumo had been criticized for failing to inform other managers of Libya's increasing weight in the company. Libya's central bank and sovereign wealth funds have a combined stake of 7.6%. Un altro annuncio ha dominato ieri sera le televisioni americane, questa mattina i giornali radio: l'annuncio, come avete sentito, delle dimissioni di Alessandro Profumo. È una notizia italiana che però ha trovato molta eco qua in America. Ecco, non dobbiamo dimenticarci, nel momento in cui ci perdiamo in mezzo a quelli che sono un po' i nostri giochi politici interni, giochi di successione, litigi nei consigli di amministrazione, che questi panni non si lavano soltanto in casa. Ormai siamo in un mondo globale. L'America, gli investitori internazionali ci osservano con molta attenzione. Mi ha colpito che ieri sera nel sito del Wall Street Journal la prima notizia di apertura era quella delle dimissioni di Profumo e non quella delle dimissioni di Larry Summers. Le dimissioni di Larry Summers erano una spalla. Ebbene, proprio il Wall Street Journal, ma anche il New York Times, hanno pubblicato un paio di analisi della situazione con un motivo comune. La sfida a questo punto è quella della successione. Non si mette in dubbio la possibilità di poter agire in modo positivo, ma si rileva come la banca fosse poi una creatura di Profumo, fosse una banca così molto articolata sul piano internazionale, e come sarà difficile trovare la persona giusta. Dunque, questa successione diventerà un banco di prova che ci vedrà così un po' al microscopio degli investitori internazionali. No change in interest rates, no change in interest rates. The FOMC will maintain the target range for the federal funds rate, 0 to 0.25%, continues to anticipate that economic conditions, including low rates of resource utilization. È stata una giornata dominata da economia e finanza su tutte e due le sponde dell'Atlantico. La Federal Reserve si è riunita, come avete sentito di nuovo dall'annuncio, ha lasciato i tassi di interesse invariati, ma c'è un punto centrale che ieri la Fed non ha risolto e che ha preoccupato i mercati, e cioè ci si aspettava che dopo le anticipazioni di agosto, questa volta Ben Bernanke annunciasse delle vere e proprie operazioni di intervento sul mercato con acquisti di titoli obbligazionari. La Fed ha in portafoglio 1.700 miliardi di dollari, una cifra spaventosa, pensateci, di titoli acquistati, pacchetto di titoli garantiti da mutui immobiliari acquistati durante la crisi. Ebbene, la Fed nel comunicato ha detto che per ora continuerà a guardare. Dunque, la situazione economica è debole, preoccupa, ma non ancora abbastanza da indurre la Fed a intervenire. E i mercati non hanno apprezzato questa ambiguità da parte della Banca Centrale Americana e si sono scatenati soprattutto sul dollaro che si è indebolito, l'euro si è rafforzato quasi dell'1%, siamo passati a quota 1,32,10 per acquistare un euro con dollari, pensate che lunedì eravamo a quota 1,3065. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla, anzi vorrei dedicare le canzoni dei prossimi giorni a New York. Abbiamo la 65esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la città è mobilitata, ci sono una gran quantità di eventi, anche eventi italiani di cui parleremo domani. New York dunque torna al centro dell'attenzione non solo come mercati ma come città globale. E dunque di Jay-Z e Alicia Keys, Empire State of Mind, dedicata a New York. Yeah, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, nigga, I be spiked out. I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from New York. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.